24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:31 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, una nuova settimana di 24 mattino che riparte alle 7:32 minuti. E allora voglio subito lanciare il sondaggio che poi tratteremo approfonditamente alle 8:30. Oggi parliamo di nucleare, sapete che in Italia il proposito del governo è quello del ritorno al nucleare. Ebbene, è una notizia che non ha avuto ampio risalto, ma ci sono ben 10 regioni che hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro il ritorno del nucleare. Dalla Calabria, la Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Puglia, Basilicata. Vi chiediamo, secondo voi hanno fatto bene? È un po' anche un sondaggio per capire cosa le pensate del nucleare stesso. Tutto questo più avanti, alle 8:30, ora la lettura dei giornali. In primo piano. Iniziando da una rapida scorsa dei giornali, i temi che trovate, ma per esempio sul Corriere della Sera il Presidente della Repubblica che parla di sicurezza, l'immigrazione è una ricchezza ma va controllata, oppure segnalo sul Sole 24 Ore un intervento del Presidente di Confindustria, riscriviamo le regole dei contratti. E ancora sulla politica, il Corriere della Sera si concentra sull'autunno caldo della maggioranza in arrivo, il giornale si spinge oltre, bene sì, il giornale, parlando a centro pagina con un titolo Aria di crisi, e c'è la foto del presidente del Consiglio, vale a dire Massimo D'Alema. No, scusate, non c'è stato un ribaltone nella notte, vi voglio tranquillizzare. Questi sono i titoli di 10 anni fa. Ebbene sì, questi sono i titoli del 5 ottobre 1999. Erano i titoli di quando era nata Radio 24. Allora li rivediamo: la sicurezza, l'immigrazione, il presidente di Confindustria, allora era Giorgio Fossa, che parla dei contratti, riscrivere le regole dei contratti, l'autunno caldo della maggioranza. E beh, guardate che non sono passati 10 anni, ma insomma i temi sembrano quelli. No, ho voluto iniziare così, voglio tranquillizzare tutti, non c'è stato nessun ribaltone politico. Ma insomma, sapete che in questi giorni festeggiamo i 10 anni e allora mi ha incuriosito andare a vedere quelli che erano i titoli di 10 anni fa. Ebbene, sono quelli che vi ho proposto. Andiamo a vedere quelli che sono i titoli veri, i titoli che trovate sui giornali, i temi che trovate sui giornali, ma guardate che, come vedete, si discostano poco. Ovviamente però trovate molto di Messina ancora, la terribile alluvione che c'è stata nei giorni scorsi, si scava ancora tra le macerie, sono tantissimi i dispersi ed è questa l'apertura vera, ora dei giornali veri, di quelli del 5 ottobre 2009, a cominciare dal Corriere della Sera. Due avvisi sull'alluvione a Messina, ma l'emergenza non è mai scattata, così apre il Corriere della Sera. Mentre la politica è l'altro grande tema in varie sfaccettature che trovate sui giornali, a cominciare dalla Repubblica, Rai, scontro sull'informazione e poi ricorso sul lodo Mondadori, si mettono insieme due notizie che vedremo. La Stampa, nuove case come all'Aquila, Berlusconi a Messina, avevamo previsto il disastro e lanciato l'allarme, così anche il Messaggero, Berlusconi, disastro previsto. Questi alcuni titoli dei giornali che trovate, c'è l'Unità anche che si dedica alla tragedia di Messina, dove finiscono i soldi, c'è una grande foto di Giampilieri in parte distrutta, lungomare di Panarea. Perché, dice l'Unità, il governo ignorò le richieste per la montagna di Messina, fondi dirottati a spiagge e isole. E d'altronde le polemiche ci sono sui giornali, sia sull'allarme che Berlusconi dice abbiamo mandato, due allarmi per la verità. E questo quello che si legge per esempio a pagina 3 del Corriere della Sera, i due messaggi di allerta che potevano salvare Messina. Ci sono anche le foto riprodotti dei messaggi, Fiorenza Sarzanini ne parla, c'è una catena di errori, omissioni, ritardi dietro la tragedia di Messina. Ci sono le responsabilità di chi sarebbe dovuto intervenire per far fronte a due avvisi di emergenza che invece sembrano non essere stati tenuti nella giusta considerazione e da parte di alcuni enti addirittura ignorati. Il primo allarme del 30 settembre, quando il Dipartimento della Protezione Civile dirama da Roma un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Poi, poco prima delle 15 del 1 ottobre, viene diramato un nuovo NOTAM che evidenzia le condizioni avverse e torna a inserire la Sicilia nelle zone dove sono previsti temporali anche di forte intensità. Questi sono i due messaggi, i due allarmi a cui faceva riferimento il Presidente del Consiglio e che però non sono stati evidentemente ascoltati. Così come c'è l'ira del capo dei vigili a pagina 3 di Repubblica: Chiesi, 1200 demolizioni, non ne hanno fatta nessuna. E questo è un altro grande tema che mette il dito nella piaga dell'abusivismo, che insomma è purtroppo un qualcosa che in Italia si vede e soprattutto emerge in tragedie come queste. 1191 richieste di demolizione di manufatti abusivi in meno di 3 anni, dal gennaio 2007 a oggi, per violazioni delle leggi urbanistiche, apposizione di sigilli, ma nessuna demolizione, neanche una. Mi piacerebbe sapere il perché di tanta ignavia. Commenta Calogero Ferlisi su Repubblica, il comandante del nucleo tutela del territorio dei vigili urbani. Insomma, la vicenda di Messina è trattata sotto il duplice aspetto: la tragedia certamente, ma anche quello che si poteva fare non si è fatto, gli allarmi inascoltati, un po' anche le nostre colpe, le nostre di italiani e di mancanza di rispetto del territorio. Ma l'altro grande tema, come avviene un po' spesso il lunedì, e che trovate analizzato, è quello politico, anche perché si apre una settimana importante, quella in cui la Corte Costituzionale deciderà sul lodo Alfano, così come si è chiusa la settimana scorsa con una sentenza importante che segna veramente il momento politico in questi giorni. Vale a dire, il Tribunale di Civile ha stabilito, come forse sapete, che Fininvest paghi alla CIR di De Benedetti 750 milioni di euro per danno patrimoniale da perdita di chance. È la vicenda del lodo Mondadori. Ebbene, su questa vicenda si innescano tutta una serie di interviste, di reazioni politiche che trovate sui vari giornali. Il Corriere della Sera, il PDL e il lodo Mondadori in piazza per Berlusconi. Bondi e La Russa dicono c'è un attacco concentrico. Ed è molto interessante l'intervista che troverete a Roberto Calderoli. Il ministro Calderoli dice: ma che cortei, si torni a votare. Capisco lo spirito della manifestazione, per carità, ma io credo che chi ha il governo ha il dovere dei fatti. Se qualcuno vuole cambiare le carte in tavola, dice Calderoli, altro che in piazza, dobbiamo portare i cittadini a votare. La risposta da dare è una sola, è concreta, bisogna chiamare a raccolta i cittadini e farli esprimere con il voto. E poi dice Calderoli, aggiunge in questa intervista Paola Di Caro, si dà così una lezione ai viscidoni che anche all'interno del governo mantengono ambigue connivenze coi poteri forti. Ce n'è uno in particolare, ma non è il solo. Ce ne sono almeno 10 o 20 che hanno la coscienza sporca e noi, gli amici del giaguaro, non li vogliamo. Scusi, ma con chi ce l'ha? Con Fini, per caso? Ma no, lui fa politica, le sue posizioni. Non è a lui che bisogna guardare. E allora chi è il traditore? Calderoli, faccia il nome, è un ministro di peso? Io non ho parlato di ministri, ma di governo. Chi deve capire, capisce. Ma stia certo, il gran visir dei poteri forti non l'avrà vinta. E tra l'altro, insomma, questa è un'intervista molto forte, appunto, di Roberto Calderoli, così come ne trovate un'altra interessante a un altro ministro, il ministro Andrea Ronchi su Repubblica. A pagina 10, se cade Berlusconi si va al voto. Fini non si presterà a manovre, dice Andrea Ronchi. Questi fantasmi, queste evocazioni di ribaltone sono sterili elucubrazioni. Se cade Berlusconi nessuna alternativa, l'unica strada sono le urne, dice Andrea Ronchi in questa intervista a Francesco Bei. E d'altronde questa vicenda del lodo Mondadori ha agitato molto la politica, questa sentenza. Ci sono i vari retroscena che dicono di un Berlusconi irato, un Berlusconi che dice verrebbe voglia di andare all'estero, una profonda ingiustizia, scrive il Corriere della Sera. Non mollerò mai, però. Questi però sono retroscena, non ci sono dichiarazioni ufficiali del Presidente del Consiglio. Abbastanza netta la posizione del giornale di Vittorio Feltri, il titolo emblematico in prima pagina: questo è un golpe, difendiamoci. Cosa c'è dietro l'esproprio a Berlusconi? Dice Feltri, è pronto il ribaltone, il centrodestra mobilita la piazza e si prepara a elezioni anticipate. Il discorso nella sua brutalità è molto semplice, scrive Feltri. Berlusconi è stato attaccato al portafogli affinché capisca con le cattive ciò che non ha afferrato con le buone. Deve abbandonare la politica. In Italia è sempre stato così, la maggioranza di governo agisce come le pare, ruba, vedi Prima Repubblica, fa riforme e finte riforme, occupa e crea poltrone per i clienti, ma una condizione, non disturbare le banche, i grandi enti privati e semipubblici, la finanza disinvolta, alcune mega industrie, insomma quelli che comandano da decenni. Chi non sta al gioco o non garantisce di allinearsi è pregato di togliere il disturbo. E più avanti Vittorio Feltri ancora dice perché dobbiamo difenderci da quello che lui definisce un golpe, questo all'interno anche di pagina 3 in un lungo editoriale. Dice Feltri, a dire il vero c'era nell'aria qualcosa di puzzo di bruciato. E si comprende perché, nonostante le batoste subite, il PD lasciasse intendere l'arrivo di scosse. Evidentemente i democratici, scrive Feltri, conoscevano le carte. Dicevamo che, tra l'altro, sul Lodo Mondadori ci sono anche due interviste che segnalo, sempre del giornale ma anche della stampa, e voglio citare questa, a Ciarrapico. Ciarrapico oggi senatore, ma fu colui che fece da mediatore tra la CIR di De Benedetti e la Fininvest all'epoca. Ciarrapico, in un'intervista a Francesco Manacorda sulla stampa, dice: oggi non farei più quel ruolo, non medierei più tra Berlusconi e De Benedetti. All'epoca fu un fatto di generale consenso, e poi c'era Carlo Caracciolo, che era un mio amico fraterno. Ora no. Dice Ciarrapico: prima di tutto sono rimasto stupefatto perché della sentenza, perché il valore che questa sentenza va, perché il valore che questa sentenza dice va ben oltre il valore del lodo che feci io. Dove abbiano preso quelle cifre proprio non lo so. Qui non c'è transazione che tenga, ci sono due schieramenti che si scontrano frontalmente, da una parte Repubblica e dall'altra il Presidente del Consiglio. Dice Ciarrapico, che poi conclude, oggi fa l'editore di giornali locali, oltre che senatore ovviamente, sulla libertà di stampa. Dice Ciarrapico: ce n'è pure troppa, per giorni siamo stati sommersi dagli affari privati di Berlusconi, come se fosse un atto istituzionale dove va a fare l'amore. Ma lo faccia dove gli pare, mica è un fatto nazionale. E tra l'altro poi ci sono delle analisi anche economiche, una singolarmente la fa proprio Repubblica, insomma una delle parti in causa, si può dire, diciamo come casa editoriale. La holding non rischia, riguarda Fininvest, ha in cassa 1 miliardo e le controllate guadagnano, scrive Giovanni Pons. Sostanzialmente, se dovesse pagare, se, dovendo pagare questa cifra, poi ci sarà probabilmente l'appello da parte di Fininvest, diminuirà drasticamente la dotazione liquida della Fininvest, che a fine 2008, dati del bilancio depositato, scrive Giovanni Pons, ammontava a 1,1 miliardi di euro. Ma di certo non verranno messe a repentaglio le attività delle controllate Mediaset, Mondadori, Mediolanum, che ogni anno pompano verso l'alto un bel flusso di dividendi. Queste le reazioni politiche. In primo piano, l'anomalia di quel lodo, questo è il titolo dell'editoriale del Corriere della Sera, firma Giovanni Sartori. Si parla del lodo Alfano, domani la Corte Costituzionale fa l'udienza sul lodo Alfano. E scrive Sartori: poco più di 7 anni fa scrivevo dell'immunità parlamentare, avanzavo una proposta, consentire al parlamentare di scegliere tra sottomettersi al giudizio della magistratura o invocare l'immunità, però nel secondo caso non si potrà ripresentare alle elezioni e dovrà affrontare a mandato scaduto il corso della giustizia. Va da sé che questa proposta, scrive Sartori, non fu accolta. Poi Sartori parla di quello che è il lodo, secondo lui la difesa in realtà è una leggina ad personam per Silvio Berlusconi. E chiude: la Corte Costituzionale, che udirà il caso domani, dovrà soltanto valutare se il privilegio di intoccabilità a vita appetito da Berlusconi sia costituzionalmente accettabile. Già a vita. Il lodo parla di sospensione temporanea, ma sembra che lascia aperto, senza dare nell'occhio, un varco fatto su misura per Berlusconi. Nel testo Alfano, articolo 5, la sospensione non è reiterabile se applicata a successive investiture in altre cariche, ma tace su successive investiture nella stessa carica. Pertanto basta che Berlusconi si faccia sempre rieleggere Presidente del Consiglio per essere salvaguardato sine die, senza termine. Intravedo già che l'onorevole avvocato Ghedini dirà proprio così. Scrive questo Sartori. Dicevamo delle polemiche sul TG1 dopo l'editoriale del direttore Minzolini contro la manifestazione per la libertà di stampa. Il CDR, il comitato di redazione del TG1, attacca Minzolini, scrive Repubblica. Garimberti, che è il presidente della RAI, dice editoriale irrituale. C'è anche un'intervista all'ex direttore del TG1 Demetrio Volcic, che dice: prima le reticenze, ora una forzatura, così si snatura il servizio pubblico. Voglio andare rapidamente alle altre segnalazioni e prendo in questo caso il Sole 24 Ore del lunedì. C'è tutto un focus molto interessante, l'apertura è statali all'esame di condotta. Sta arrivando al termine del suo iter la riforma Brunetta. C'è anche su ovviamente quindi gli statali un commento di Marcello Claric: una legge che vale più dei contratti. Scrive: sarà finalmente la volta buona, col decreto legislativo che giovedì ha ottenuto il via libera del Parlamento e ora attende il varo definitivo in Consiglio dei Ministri, la cura Brunetta per riformare la pubblica amministrazione realizza un obiettivo importante: introdurre norme più severe per premiare e punire i dipendenti pubblici e migliorare l'efficienza degli uffici pubblici. Si tratta di due pagine anche all'interno, tutto un focus appunto sulla riforma Brunetta, una riforma del pubblico impiego che dovrebbe portare a più durezza per chi sbaglia e più premialità per chi invece sostanzialmente si distingue. Questo per esempio, basteranno 4 giorni non giustificati per perdere il posto, per essere licenziati, e poi tutti i meccanismi invece di premialità. Questo sul Sole, così come sul Sole voglio segnalare a pagina 3 in ufficio la tentazione di Facebook. Di che cosa si tratta? Galeotta fu internet e chi l'accese, si legge a pagina 1 del Sole e poi all'interno appunto un ampio servizio. 37 ore, 46 minuti, 35 secondi, sapete cos'è? È il tempo che i lavoratori italiani passano ogni mese su internet, come dire una settimana su 4, ma dove? Sul posto di lavoro. E dunque c'è tutto anche un focus delle aziende che dicono chiudiamo, delle aziende invece che dicono no, noi facciamo internet aperto per i nostri dipendenti, perché non si vede da lì e non si giudica da lì come si comportano. Detto questo, come detto, avete sentito all'inizio, sono 10 anni della radio, allora anche noi vogliamo concludere la rassegna stampa. L'abbiamo iniziata simpaticamente leggendo i titoli di 10 anni fa, la vogliamo chiudere così. I nostri, quelli che sono venuti prima di me, insomma, a volte può capitare, l'orario è questo, la voce mia oggi è anche questa, a volte può capitare degli incidenti. Li sentiamo. 1999 2009 Autoblob. Si aggrava il bilancio del tragico sbarco a Porto, Empedocle. Sull'inchiesta condotta sul caso slot machine e monopoli di Stato del secolo XIX. Riferisce in prima pagina il caso slot monopoli a strisce. Tante le notizie importanti oggi, diverse dunque le scelte fatte dai quotidiani per l'apertura originale, quella del Corriere della Sega, della Sera. Vorrei... Passato... Scusate molto, passato al giornale che scrive... Scusate molto, ho avuto un colpo di tosse. Scusate ancora, sono stato colpito da un terribile colpo di tosse. Speriamo di farcela fino alla fine, ma insomma. Radio 24, sull'onda da 10 anni. Vabbè, insomma, come sapete, capita, ecco, come si dice in questi casi, non sparate sul pianista. L'ora è presta e poi a volte i malanni di stagione fanno questi danni. Allora ci fermiamo qui per la rassegna stampa di oggi. Voglio ricordare il sondaggio di cui parleremo alle 8.30. Andate a votare sul sito radio24.it. 10 regioni ricorrono alla Corte Costituzionale contro il ritorno del nucleare in Italia. Hanno fatto bene secondo voi? Che ne pensate? Andate lì e poi chiamate l'800 24 00 24 per intervenire. Le 8 e 17 minuti, eccoci, ben ritrovati a 24 mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani. Sei finito di ridere? Ma stamattina con tutte le gaffe è stato troppo divertente. Un po' le gaffe, esatto. Le gaffe quelle che abbiamo fatto noi come esatto. Famiglia di Radio 24 in questi 10 anni. Infatti, per celebrarci. Oggi noi a Salvadanaio, guarda, già che ci sono, lo anticipo adesso, non faremo la puntata delle gaffe, anche se sarebbe stato molto divertente rintracciarne qualcuna, perché sicuramente, anche se è molto difficile, anch'io ne ho qualcuna. Guarda, non dico niente perché avevamo preparato uno scherzo per te, ma poi non l'abbiamo fatto. No. Ce ne sono, non ti preoccupare. Maledetti, no, anche noi facciamo 10 anni di Radio 24, ovviamente concentrandoci un po' sulle tematiche del risparmio, su tutte quelle che sono state i successi degli investimenti degli italiani in questi anni, ma anche i grandi clamorosi crack, quindi le disavventure del risparmio nel nostro paese. E invece oggi. Soldi e dintorni. Allora, usi molto il computer di notte? No. Francamente, sai com'è? Fine settimana? Svegliandosi alle 5:30 si dorme, quel poco si dorme. Fine settimana lo usi. C'è chi lavora molto di più nella notte che di giorno, oppure fa funzionare per esempio gli apparecchi come la lavatrice, la lavastoviglie, se non provoca liti in condominio, naturalmente, molto di più nelle ore notturne. Allora, tutto questo per arrivare a parlare delle tariffe biorarie per l'energia elettrica. Perché ne parliamo oggi? Perché intanto vogliamo cercare di capire se fanno davvero risparmiare gli utenti dell'energia, quanti usufruiscono delle offerte che sono già disponibili, che tipi di contatori sono necessari per poter registrare correttamente il proprio utilizzo di energia elettrica, e soprattutto ne parliamo perché è scattato il conto alla rovescia per l'introduzione della tariffa bioraria obbligatoria per quei clienti che non sono passati nel 2007 o nei mesi successivi al mercato libero. Allora, può sembrare una questione piuttosto complessa, in realtà non lo è, ma la renderemo ancora più fruibile per i nostri ascoltatori con Raffaele Mariano, responsabile settore energia di Cittadinanza Attiva. Mariano, buongiorno. Buongiorno a tutti. E benvenuto a Soldi e Dintorni. Grazie. Allora, data inizialmente fissata, il 1 gennaio, poi c'è stato una possibile ipotesi di slittamento al 1 aprile, mettiamola così, che presumibilmente la prossima primavera dovrà essere appunto introdotta questa tariffa bioraria obbligatoria per tutti quei clienti che non sono passati al mercato libero da quando è contemplata questa opportunità a luglio 2007, ma sono gestiti dal servizio di maggior tutela dell'autorità del gas e dell'energia. Mariano, cosa vuol dire tutto questo? Ce lo rende in termini più semplici per i nostri ascoltatori? Ci proviamo. Tutto questo vuol dire che, appunto, come ha detto lei, tutti i clienti del regime di maggior tutela, cioè quelli che non sono passati ad un fornitore libero che opera sul mercato, verranno trattati economicamente, diciamo, dal proprio fornitore per fasce orarie, cioè gli si fatturerà un consumo con dei prezzi diversi a seconda del fascia oraria nella quale utilizzano l'energia. Per intenderci, nella fascia notturna l'energia sarà più economica, nelle fasce diurne, quindi fino alle 19 del pomeriggio, l'elettricità costerà di più. Allora, la tariffa bioraria in realtà non è la rivoluzione copernicana per il nostro paese, perché c'era in realtà anche prima della liberalizzazione del mercato dell'energia. Come funzionava prima? Quali sono state le novità che poi sono state via via introdotte, Mariano? Sì, in effetti la tariffazione bioraria era già una realtà presente nel nostro paese. Prima però, a differenza di oggi, non penalizzava i consumatori che consumavano energia nelle ore diurne più che nelle ore notturne. Oggi invece il costo dell'energia nella fascia diurna è penalizzante rispetto al mondo orario, quindi se per caso noi distrattamente accendiamo una lavatrice in più, una lavastoviglie in più nelle ore diurne, andremo a vedere il peso in bolletta, ce ne accorgiamo amaramente, insomma, di questo comportamento. Per cui, ecco, possiamo già cominciare a dare, Mariano, una prima indicazione pratica ai nostri ascoltatori. Qualora questa offerta commerciale ce la proponessero e ci tentasse, cerchiamo di fare un check-up esatto delle nostre esigenze di consumo, come capita un po' per tutte le cose quando scegliamo il conto corrente piuttosto che un altro servizio. In realtà, prima di tutto, bisogna fare esattamente un quadro delle nostre esigenze, no? E quindi anche in questo caso mi sembra forse il suggerimento principale da dare. Esatto. Esatto, ed abbiamo una soglia ben precisa di convenienza per l'utilizzo della fascia bioraria, e che è appunto il consumare più del 67% della, non più del 67% della nostra energia, cioè non meno, scusate, del 67% della nostra energia nelle fasce notturne. Se non riusciamo a conseguire questo tipo di consumo, verremo penalizzati da questo tipo di tariffazione. Allora, lei prima ci diceva la bioraria c'era già prima della liberalizzazione del mercato, che è scattato per quello che riguarda l'energia il 1 luglio del 2007, e da quel momento in poi sono state circa 2 milioni le famiglie che hanno deciso di cambiare piano tariffario con lo stesso fornitore oppure passare ad un altro distributore di energia. Però in questo frangente molti attori del mercato appunto elettrico del nostro paese hanno proposto la tariffa bioraria. Con che grado di successo fra i consumatori, a suo avviso, secondo il vostro osservatorio? Purtroppo non abbiamo dei dati rassicuranti, nel senso che, mancando una forte consapevolezza da parte dei consumatori rispetto ad una scelta opportuna di queste proposte, non riusciamo ad avere un quadro che ci rassicura. Inoltre l'autorità è dovuta anche intervenire, perché gli operatori diciamo così, proponevano questo tipo di soluzioni economiche senza dare le opportune informazioni e le complete informazioni per agevolare una scelta consapevole. Oggi si è posto rimedio a questo problema. I vari venditori di energia sono obbligati ad indicare appunto le soglie di indifferenza, sono definite così, di cui parlavamo prima, e dando così al consumatore uno strumento in più per appunto operare una scelta consapevole. Allora, dicevamo, queste tariffe ci sono già. La tariffa bioraria la può sfruttare innanzitutto chi è cliente di un operatore che la offre nel proprio pacchetto. Bisogna cambiare anche il contatore della propria abitazione, Mariano? Per aderire assolutamente sì. Per aderire ad un'offerta bioraria è necessario dotarsi di un contatore elettronico. In Italia ci sono 32 milioni di punti di accesso. Sappiamo che è in atto una campagna di sostituzione a tappeto dei contatori elettronici. Entro il 2011 tale campagna, dice l'autorità, dovrà essere completata. Sappiamo che adesso più o meno manca 1 milione di famiglie alle quali dovrà essere installato appunto un contatore elettronico, comunque in grado di conteggiare i consumi appunto per fasce orarie. Per fare una lettura per fasce, appunto. Leggevo da qualche parte questa informazione tecnica, le chiedo di tradurcela. Oltre che elettronico, il contatore deve essere anche telegestito. Cosa vuol dire? Telegestito vuol dire che il nostro venditore, attraverso la collaborazione con il distributore dell'energia elettrica, riesce a conteggiare i nostri consumi in tempo reale e senza la necessità di mandare il classico misuratore, no? L'omino che viene a casa e ci legge il contatore appunto, ma è un contatore appunto che riesce a trasmettere alla centrale i dati in tempo reale. Per la telegestione siamo ancora molto indietro, non è detto infatti che un contatore elettronico sia di per sé già telegestito. Occorrono delle procedure tecniche di messa in rete diverse, più complesse, e su questo fronte siamo ancora indietro e ci auguriamo che presto vengano risolti anche questi. Ecco Mariano, forse è presumibilmente questo il motivo per cui, per la partenza della tariffazione bioraria per tutti gli utenti che non hanno aderito al mercato libero ma sono inseriti nell'ambito del programma di maggior tutela dell'autorità, forse è per questo che la bioraria ancora non potrà partire nel giro di pochi mesi. In effetti questo è un problema che frena questo tipo di innovazioni. Benissimo, le chiedo allora, guardi, negli ultimi 10 secondi, un'ultima raccomandazione ai nostri ascoltatori per chi fosse così interessato a chiamare il proprio operatore dell'energia e a così magari sottoscrivere la proposta commerciale che contempla già l'offerta bioraria. Che indicazioni diamo? Di stare molto attenti prima di aderire ad un'offerta di questo tipo a quelli che sono i propri consumi, essere consapevoli di quanta energia si consuma, quando la si consuma, come utilizzare un elettrodomestico e un elettrodomestico e saperlo fare, perché l'invito è consumare energia nelle ore diurne e nelle ore notturne indipendentemente dall'offerta che si ha, perché fa bene al paese. Grazie a Raffaele Mariano di Cittadinanza Attiva, le auguro una buona giornata, presto. Buona giornata anche a lei. Alessandro. Pietro, io ti ho già dato l'anteprima di Salva Danaio di oggi, 10 anni di Radio 24. Ci saranno con me Sebastiano Barisoni, che è stato il primo conduttore di Salva Danaio, e Marco Liera. Bene, noi tra poco continuiamo a parlare di energia. Il nostro sondaggio è sull'energia nucleare. Ci sono 10 regioni che hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge che ripristina, che vorrebbe ripristinare il nucleare in Italia. Che ne pensate? Hanno fatto bene oppure no? Sono le 8:33, le notizie in primo piano sono questo. Nel Messinese si continua a scavare per cercare superstiti all'alluvione di venerdì, sono 24 le vittime accertate, 39 i dispersi. Ieri il presidente del Consiglio Berlusconi era sui luoghi del disastro, ha detto che dalla protezione civile erano partiti due messaggi di allerta inascoltati, ha promesso ricostruiremo le case come in Abruzzo. La politica fa discutere la sentenza del Tribunale di Milano che condanna Fininvest a pagare alla CIR di De Benedetti 750 milioni di euro per il lodo Mondadori. Il PDL annuncia una manifestazione di piazza. Per il calcio, il Palermo ha battuto 2-0 la Juventus nel posticipo di ieri e così in testa alla classifica sono appaiate Inter e Sampdoria, quest'ultima fermata a Marassi dal Parma sull'1-1. Pareggia anche il Milan, 1-1 a Bergamo con l'Atalanta e torna in gol Ronaldinho, vincono Roma, Genoa e Chievo. Infine l'Italia femminile di pallavolo ha vinto in Polonia gli europei battendo in finale l'Olanda 3-0. E dunque alle 8:35, oggi parliamo di energia nucleare e questo è il nostro sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, detto che per votare il sondaggio, come sapete, dovete andare sul sito radio24.it, c'è la sezione bianco-nero che vedete in home page, un po' in basso a destra, e su ilsole24ore.com. La domanda che vi facciamo è molto semplice. Ci sono 10 regioni che hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale per contro la legge che intenderebbe ripristinare il nucleare in Italia. Secondo voi hanno fatto bene oppure hanno fatto male? È un po' un sondaggio, insomma, anche se volete, su nucleare sì, nucleare no. Voglio salutare Silvio Greco, buongiorno. Buongiorno. Silvio Greco, assessore all'ambiente della Regione Calabria. La Regione Calabria mi pare che sia stata la prima a dare il via a questa serie di ricorsi alla Corte Costituzionale. Perché, assessore, la Regione Calabria ha detto no, ha fatto questo ricorso? Cosa non vi sta bene? Non ci sta bene il metodo e il merito. Il metodo perché riteniamo che nel momento in cui si vada verso un federalismo con grandi squilli di tromba, poi non si può dire che in un tema così delicato rispetto anche alla problematica energetica, in una regione che già produce energia a strafare, è su una delicata questione proprio il merito della forma di energia, le regioni debbono stare solo a guardare, mi sembra non senso. Cioè, quello che non vi sta bene è che la legge, tra l'altro, prevede la possibilità, nel caso non si trovi un accordo con gli enti locali, eccetera, la possibilità da parte del governo centrale di scegliere in autonomia dove si deve, per esempio, mettere una centrale nucleare. Questo... Ma non solo. Anche dove si deve mettere un sito di scorie radioattive. Sì. E tra l'altro questa vicenda cade in questo periodo particolare dove già in Calabria a quanto pare ce l'abbiamo qualche deposito di scorie radioattive, molto probabilmente in una nave a mare a 437 metri di profondità, quindi sì. Lei capisce bene, insomma. Però non è un modo, come dire, la solita sindrome del no? Cioè, voglio dire... No, assolutamente. Ma guardi, dice... io lo dico anche provocatoriamente. Noi siamo disposti, se vogliono fare una centrale in Calabria, diamo l'autorizzazione. Lei lo sa la percentuale di comuni in dissesto idrogeologico di questa regione quant'è? Il 100%, quello della Sicilia il 70%. Noi siamo una zona R5, nel senso che da noi c'è il rischio che in ogni momento questa terra scompaia, perché è una terra geologicamente giovane, quindi è ovvio che non è il no, però noi ci chiediamo proprio anche a livello culturale, noi ancora non siamo riusciti a smaltire rifiuti tossici, radioattivi che da 20 anni sono nei vari depositi, che è stata la prima grande esperienza nucleare di questo paese, interrotta con legittimo referendum popolare, e pensiamo di fare nuove centrali e pensiamo di fare dei depositi quando non abbiamo neanche fatto il decommissioning del materiale di Insomma, il ricorso è chiaro. Io voglio ricordare Calabria, poi Toscana, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Basilicata, Umbria, Marche, Puglia hanno impugnato appunto davanti alla Corte Costituzionale questa legge, la legge che regola l'individuazione di nuovi siti per i depositi delle scorie e la creazione di nuove centrali nucleari. In queste regioni che ho citato non c'è il Veneto e ne voglio salutare l'assessore sempre alle politiche dell'ambiente, Giancarlo Conta. Assessore, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, ha sentito dalla Calabria il suo collega Silvio Greco, dice ma che insomma noi siamo stati i primi, non ci piace il metodo, non ci piace il merito, poi in Calabria il rischio idrogeologico è per il 100% dei comuni e poi si sono accodate insomma tutte le regioni. Il Veneto invece, so che il presidente Galan si è detto è un nuclearista convinto, questo non ne facciamo mistero. Voi che posizione avete? Van bene le centrali nucleari in Veneto? No, guardi, noi abbiamo una posizione aperta come abbiamo sempre fatto. Io mi ricordo 10 anni fa, quando è stato chiesto a tutte le regioni la possibilità di avere un rigasificatore, tutti hanno detto di no, noi abbiamo detto di sì, ci abbiamo messo 10 anni, oggi abbiamo un rigasificatore davanti al delta del Po e portiamo il 10% del gas italiano, quindi siamo consapevoli che non avendo il petrolio, non avendo il gas, non avendo fonti di energia alternative tali da permetterci l'autonomia, abbiamo detto noi siamo aperti. E poi ricordo che il Veneto è sempre stato, diciamo, lungimirante in questo settore. Siamo la prima regione in Italia per quanto riguarda la raccolta differenziata, abbiamo raggiunto proprio nel mese di luglio il 52% di media regionale di raccolta differenziata. Quindi questo non vuol dire che la faremo nel Veneto, vuol dire che siamo consapevoli che andando a comprare energia in tutto il resto del mondo, e ricordo che in Europa ci sono 96 centrali nucleari, ce ne sono 5 sono in Svizzera, e quindi siamo noi al nord, perlomeno siamo accerchiati dalle centrali nucleari, quindi c'è una disponibilità nell'affrontare un problema. Nel poi caso. Non è neanche vero che il referendum, quello che abbiamo fatto, diceva nucleare sì, nucleare no, perché le domande erano completamente diverse. Erano diverse. Comunque, però è stato interpretato poi così, insomma, per estensione. Così. Però le chiedo, lei dice giustamente non vuol dire che arriva una centrale nucleare in Veneto, anche perché insomma è ancora prematuro, poi non è una decisione appunto che spetta, no, nel caso, alla regione. Però le chiedo, visto che voi avete il coraggio di questa posizione, le dice lungimirante, voglio dire, dovesse arrivare nel caso una centrale in Veneto, voi dite la posizione del governo della regione è va bene. Ma diciamo, noi siamo pronti a discuterne, poi sul metodo sono d'accordo anch'io che bisognerà eventualmente valutare in maniera molto approfondita, seria, un eventuale sito. Però è proprio un discorso di mentalità, cioè noi siamo consapevoli, appunto per quello abbiamo lavorato nel settore anche delle fonti di energia alternative in maniera forte, siamo consapevoli che non abbiamo le materie prime. Il nucleare, ripeto, le nuove centrali nucleari stanno nascendo dopo, è vero, un periodo di ferma sia a livello europeo che a livello mondiale. Oggi le nuove tecnologie permettono anche quelle che sono due prerequisiti che per noi sono fondamentali: la sicurezza per i cittadini, la sicurezza ambientale. Ecco, date queste risposte siamo aperti. Allora, vediamo, c'è già un ascoltatore, lo voglio, dai, andiamo a Roma, da Emiliano. Emiliano? Sì, buongiorno a tutti. È favore o contro? Cioè, hanno fatto bene le regioni a far ricorso contro la legge contro il nucleare? Per come la penso io, assolutamente sì, ma non tanto per una questione di coinvolgimento delle regioni e delle amministrazioni locali, ma per il fatto che gli italiani in generale si sono già espressi su questa questione con un referendum dicendo di no. Allora mi chiedo, se è cambiato se sono cambiate le idee sull'energia nucleare, perché non si debba richiedere agli italiani se sono d'accordo o no? Il re-referendum. Beh, Sì, sostanzialmente, visto che gli italiani hanno già detto di no, perché ma sa, poi, fa l'energia nucleare, gli italiani non hanno nessuna voce in capitolo. Lo strumento, grazie Emiliano, lo strumento sarebbe diverso, perché insomma il referendum allora era, come si sa, il referendum è abrogativo, quindi ha cancellato qualcosa, che si potrebbe cancellare il divieto. Comunque, Silvio Greco, assessore, lei che ne pensa? È un movimento che può portare anche a dire almeno facciamo un referendum, almeno nel caso consultiamo la popolazione? Questo no, noi voglio dire, io dicevo poco fa il metodo, ma noi siamo anche entrati nel merito, entreremo nel merito, perché noi riteniamo innanzitutto che non ci sia alcuna come dire, modernità negli impianti previsti, perché si parla di un rapporto con la Francia che ad oggi ha una tecnologia obsoleta, tanto per iniziare, perché la vera novità potrebbe essere quella degli Stati Uniti rispetto alle centrali di nuova generazione, ma che non rientrano nell'accordo che già il Presidente Berlusconi ha firmato con il Presidente Sarkozy. Quindi noi qua ci troveremmo soltanto delle tecnologie veramente insomma ormai obsolete, da una parte. Dall'altra, una riflessione che bisogna fare, non ne parla nessuno, ma si sa quanto uranio c'è in questo pianeta? Si vuole ricordare che l'uranio non si costruisce, cioè che qua c'è anche un problema anche di disponibilità di carburante. Fermo restando tutto quello che già ho detto, quindi lo ritengo un fatto culturale anche rispetto il costo di questa energia. Poi tra l'altro il collega Coda, che saluto, insomma, anche se lo vedo poco nella conferenza delle regioni che coordina a livello nazionale degli assessori italiani, e sa bene che è una cosa rigassificatore, è una cosa di espansione nucleare. Anche noi ora Gioia stiamo facendo il rigassificatore, che non è altro che un passaggio di stato, insomma, di un gas. Sì, però quello che voleva dire l'assessore era dire che il no pregiudiziale in Italia, sappiamo, non è questo magari il caso, ma il no c'è anche se si vuole fare una per nulla. Ma no, abbiamo però anche ragionato, però abbiamo ragionato in conferenza degli assessori. Assessore, però lei mi conferma che c'è in Italia una questa famosa sindrome dell'anche se si fa una rotonda subito nasce un comitato a contestare. Ma sono d'accordo, questo però a maggior ragione lei non pensa che questo clima si è creato in Italia proprio perché la gente non è stata mai consultata, perché non si è mai parlato con le persone? Può essere, perché può non essere si anche va a spiegare. Essere allora anche c'è sempre un motivo nelle cose, non è che le cose succedono casualmente, non è che si innesca un meccanismo, anche questo del NIMBY si crea così dall'oggi al domani perché ci sono veramente così la gente che si alza la mattina. In questa nostra nazione, e ne abbiamo i risultati ogni giorno con le alluvioni, eccetera, che cosa si è fatto? Si è costruito sui reti dei torrenti, si è fatto di tutto perché in ogni caso c'era gente che aveva bisogno di crearsi le clientele, e questo un po' ovunque, perché il problema persiste in Liguria e abbiamo visto drammaticamente come in Sicilia e come in Calabria, ma è sempre frutto di un meccanismo culturale, di sottocultura. Quindi anche questo che la gente ormai veramente, ma mi rendo conto, esasperata, gli fa una rotonda e si arrabbia, è perché qua perché nessuno non viene va, li chiama, nessuno, fa, riunisce non il quartiere, gli spiega che la rotonda può salvare 30 vite dei loro figli, che così loro coi figli con motorino sono più tranquilli. Ma ma è chiarissima, è chiarissima la sua posizione. Da Roma, insomma, la cosa mi sembra anche ben diversa. La sua posizione è chiarissima, assessore. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, sul sito radio24.it o il sole24ore.com bisogna dire per il momento che un 52% di voi dice sì, hanno fatto bene le regioni a ricorrere contro alla Corte Costituzionale contro la legge che vorrebbe ripristinare il nucleare, mentre il 48% dice di no. Voglio andare alla provincia di Modena da Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Giorgio, che dice lei? Buongiorno, io faccio parte del 48% allora. Bene. Cioè bene, se lei è convinto, mia, bene. Ma le spiego, la mia è una questione, ne parlo come una questione di principio, lasciando perdere il colore, il partito, di principio. Anni fa, appena uscita la Prima Guerra Mondiale, quando il Duce chiese al popolo, alla folla, volete i badigli o volete i fucili, la gente ha scelto i fucili. Ora, secondo me la gente, fondamentalmente, è un popolo di galline, che chiunque può pilotare, una persona un po' capace può pilotare. Allora, certe scelte importanti, fondamentali per un paese, non vanno declinate al popolo, assolutamente. Quindi lei dice altro, come dice che Silvio Greco, l'assessore in Calabria, che dice non è mai stata coinvolta la popolazione, non deve essere coinvolta su un argomento così importante, lei dice. E che facciamo? Lei dove abita? A Rio Saliceto, vicino a Carpi, Modena. E una centrale nucleare per lei non c'è problema a metterla lì? Ma ce l'ha, abbiamo a 100 chilometri, ne abbiamo, come diceva il nostro collega prima. Proprio 100. Siamo circondati, ma glielo chiedo, nel senso che la sua posizione è questa, quindi non avrà problemi a metterla lì o a Modena, cioè per lei, dal suo punto di vista, non sarebbe un problema. Ricordiamoci di Chernobyl, voglio dire. Che sta sia a qualche migliaio di chilometri. Comunque lo prendo come un sì, non ci sarebbe problema metterla lì a Modena. Esattamente. Va bene, prima di tornare dall'assessore Conta, voglio salutare anche il professor Enzo Boschi. Professore, buongiorno. Buongiorno. Presidente buongiorno. Dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Insomma, non è proprio il suo tema, però visto che le regioni ricorrono e molte dicono noi non abbiamo il territorio ideale per una centrale, ci spiega in Italia, le faccio banalmente questa domanda: in quali regioni, secondo la morfologia, le questioni sismiche, insomma tutta la struttura del nostro territorio, quali sono le regioni che secondo lei potrebbero accogliere una centrale nucleare, così in un discorso ipotetico? Sì, appunto, il mio è un discorso così puramente, a me nessuno mi ha chiesto di fare questo lavoro. No, perché non vorrei reazioni da parte di regioni. Comunque le zone adatte erano quelle che furono scelte, almeno dal punto di vista sismico, quelle che furono scelte tanti anni fa, prima del referendum. E le zone sono quelle dove devono essere zone dove si consuma molta energia. Ma ce le dica le regioni, quindi non so, il Piemonte? Ma ci sono zone nel Piemonte, nella Lombardia, in Emilia Romagna, dove in linea di principio, per quello che ne so io, insomma, il rischio sismico è abbastanza basso, dove si potrebbe costruire cose di questo genere. Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna. Anche se qualcuno ci dice, ma il rischio sismico in Giappone, che è un paese molto sismico, ci sono le centrali nucleari. Ah certo, in linea di principio si può costruire qualunque cosa ovunque, naturalmente lievitano i costi, ma in ogni caso non è solo il rischio sismico che va preso in considerazione, ma sono molte altre cose che vanno prese in considerazione. Per esempio? Che esulano anche dalle mie competenze. Per esempio? Per esempio quello che diceva lei, la conformazione geologica, la vicinanza dell'acqua, le centrali nucleari hanno bisogno di molta acqua, quindi poi devono smaltire quest'acqua. Io sostanzialmente non me ne intendo di centrali nucleari perché non è il mio mestiere, però in linea di principio se si vogliono costruire si possono costruire, non c'è alcun dubbio. Ma naturalmente questo va fatto con l'accordo delle popolazioni. Contrariamente... Per far questo bisogna che qualcuno vada a spiegare esattamente in cosa consiste una centrale nucleare, quali sono i rischi. A mio avviso una centrale nucleare ben costruita non provoca alcun rischio, anzi paradossalmente chi vive in prossimità della centrale nucleare è più sicuro rispetto a tante altre cose. Però anche questa è un'affermazione che, insomma, in genere può essere strumentale. Sì. Vabbè, ma bisogna avere il coraggio delle proprie idee, professore, non è un problema. Assessore Conta, lei come è d'accordo con l'ascoltatore che dice addirittura scelte del genere non vanno discusse con la popolazione, o almeno su questo con l'assessore, suo collega della Calabria, dice no, bisogna spiegare per filo e per segno quando si fa una, se dovesse fare una cosa del genere? Ma guardi, la formazione e l'informazione, però quella corretta, è necessaria, proprio è un prerequisito anche questo per qualsiasi tipo di intervento, soprattutto nel settore ambientale. Si pensi che noi in evento abbiamo una legge che praticamente abbiamo deciso di non avere più discariche per i rifiuti ancora qualche anno fa e di utilizzare il rifiuto come una risorsa, no? E quindi abbiamo iniziato un percorso, abbiamo 4 termovalorizzatori, però nonostante abbiamo fatto prima continuamente informazione, abbiamo coinvolto i cittadini, i sindaci, le amministrazioni dove si pensava di realizzare il sito, ho trovato sempre solo comitati contro, non ho mai trovato comunque un comitato a favore. Nonostante questo abbiamo fatto 4 impianti, dobbiamo farne ancora un paio, perché oggi la tecnologia secondo noi è quella che ci dice di utilizzare il rifiuto come risorsa per ricavare energia e acqua calda. Quando domani avremo altri strumenti più dal punto di vista della tecnologia più avanzati, faremo altre scelte, però è vero, bisogna ascoltare i cittadini, bisogna coinvolgerli, però anche poi bisogna decidere, se no, tipo l'emergenza rifiuti e altre cose qui ce la troviamo in tutta Italia. Quindi la facile strumentalizzazione in un settore delicato come quello ambientale purtroppo è all'ordine del giorno. Quindi alla fin fine sì, coinvolgiamo, informiamo, ma ripeto, quello che sarebbe importante è la corretta informazione, perché in questo settore c'è purtroppo troppa strumentalizzazione, quindi si dice tutto il contrario di tutto. Questo è vero. Abbiamo anche a livello di scienziati, abbiamo posizioni autorevoli diverse, cioè non so, Rubbia ha cambiato idea 10 volte sulle fonti di energia alternativa, su cosa bisogna fare. Quindi è indubbio che è una questione delicata, è indubbio che bisogna sentire i cittadini, ma è altrettanto vero che, proprio banalizzo, avere un cassonetto davanti a casa è un problema, basta spostarlo vicino a casa di un altro e si risolve il problema. Si risolve, questo sia un po' l'atteggiamento italiano. Io mi devo fermare, vi ringrazio, staremo a vedere come va a finire questa vicenda, una vicenda concreta e come tutte le vicende davvero concrete che ci riguardano hanno poco spazio sui giornali. Grazie all'assessore Silvio Greco della Regione Calabria, così come all'assessore Giancarlo Conta della Regione Veneto e il professor Enzo Boschi. Dovete votare sul sito radio24.it alla sezione bianco o nero o ilsole24ore.com. La domanda che vi facciamo oggi, come detto, è 10 regioni ricorrono contro il nucleare, diciamo, contro la legge che ripristina il nucleare in Italia. Fanno bene secondo voi oppure no? Alle 13 vi daremo i risultati. Ringrazio Alessandro Marco Tulli in redazione, Peter Bescape in regia e ci sentiamo domattina alle 7.30.